voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Maria Cristina Piovesana e i mobili di Alf Group, dal family business al boom dell'export, di Irene Privitera. Sono Maria Cristina Piovesana, sono il presidente del gruppo Alfa, si tratta di un'azienda del settore del legno arredamento, mobili, noi facciamo per la casa. Quando parliamo di mobili intendo dire facciamo camere da letto, facciamo armadiature, soggiorni e anche cucine. Siamo un'azienda situata nel nord-est, precisamente nella provincia di Treviso. Ritengo che la forza della nostra azienda sia quella di essere ancora un'azienda basata sul family business, cioè noi siamo una grande famiglia, condividiamo quelle che sono le strategie, il ruolo mio principale è proprio quello di coordinare e far sì che tutti vadano in quella direzione che poi abbiamo deciso insieme a livello strategico. Maria Cristina Piovesana ha 47 anni ed è presidente e amministratore delegato di Alf Group, una SPA con un consiglio di amministrazione a cui partecipano con il ruolo di consiglieri anche il fratello Piero e il marito, Flavio Dafré. Oggi Alf può contare su un team di 330 collaboratori e un fatturato di circa 54 milioni di euro. Nel 1951, quando Oliviero Piovesana, padre di Maria Cristina, entrò come operaio nella Alf Artigiana Legno Francenigo, insieme al fratello Eugenio, a lavorarci erano soltanto in 5 o 6 persone. Di fatto non è stata fondata da mio padre e mio zio. Artigiana Legno Francenigo nasce nel 51 come una specie di un'azienda artigiana dove veniva lavorato il legno, compresi anche quelle che erano, non so se avete presente, le tavole, quelle che venivano usate nei fossi quando si lavava la roba. C'erano queste tavole dove le donne si inginocchiavano e lì lavavano la biancheria, perché stiamo parlando degli anni 50, quando probabilmente, penso, non c'era né la TV né c'erano le lavatrici, e perciò faceva piccoli utensili praticamente per l'uso quotidiano, degli armadietti, dei comodinetti. Dopodiché mio padre entra come operaio, ha una visione probabilmente diversa, chiede anche mio zio di entrare insieme e un po' alla volta si appassionano a questo lavoro, e nel 61 rilevano la società, ma rilevano un'aziendina artigiana, e pian pianino, con tanta determinazione, con quella che è la passione poi tipica della gente della nostra zona, l'azienda cresce. Da piccola azienda artigiana diventa un'azienda artigiana un po' più grande, sempre più grande, fino a trasformarsi in industria. Nei primi anni 80 comincia l'avventura di Alf verso l'estero. Oliviero Piovesana partecipa a diverse fiere, in una delle quali conosce degli importanti clienti americani con cui realizza il sogno di vendere i suoi mobili al di fuori del mercato italiano. Mio padre ha sempre avuto una vocazione e un'attenzione verso l'estero. Amava i racconti di Salgari e penso che questo spirito che Salgari con i suoi racconti ha donato in un certo senso a tanti giovani, proprio per avere il gusto dell'avventura. Mio padre perciò desiderava andare nei paesi esteri, vedere cosa succedeva, eccetera, e così è cominciata la nostra avventura, che ci ha portato oggi ad essere un'azienda da 54 milioni di euro di fatturato, dove l'80% la Alf lo vende all'estero. Abbiamo clienti in varie parti del mondo, tocchiamo circa 80 paesi, ma le aree dove siamo maggiormente focalizzati sono Russia, Stati Uniti e Medio Oriente. Per questi creiamo ogni giorno prodotti che siano adatti non solamente a un gusto tipicamente italiano, ma adattato anche a quelle che sono le esigenze di questa clientela, che a volte si esplicano in dei mobili che sono fatti con dei materiali, oppure con una modellistica che è più vicina al loro gusto. L'azienda cresce, ma i momenti difficili non mancano. Intorno agli anni 90, Alf si trova ad affrontare alcuni cambiamenti in Messico e in Russia. Lavorando con l'estero si è soggetti a parecchi cambiamenti che non sono da noi determinabili. Il problema molto spesso sono le valute oppure dei dazi doganali. Questo è successo sia per quanto riguarda il Messico, quando c'è stata una grossissima svalutazione. Noi siamo passati allora dai 7 miliardi di di lire venduti, mi ricordo che allora c'era ancora la lira, a vendere circa 1 miliardo, perciò veramente un tracollo. E poi abbiamo visto anche la Russia ha avuto dei momenti dove effettivamente c'è stata una crescita anno per anno, e poi anche lì c'è stato un momento dove la Russia si è fermata e addirittura abbiamo avuto dei cali dovuti invece non tanto a problemi di valuta in questo caso, ma dovuti a motivi politici. Il passaggio alla moneta unica è particolarmente delicato per l'azienda, che intorno al 2000 aveva un fatturato completamente sbilanciato verso il mercato statunitense. Qui infatti raccoglieva l'80% dei suoi ricavi. Un momento importante, direi, per quanto riguarda l'azienda è stato senz'altro l'anno 2002. Nel momento in cui l'euro si rafforza sempre di più, il mercato statunitense per noi cala, e perciò sono stati degli anni molto difficili dove abbiamo riconvertito una parte delle nostre risorse dell'azienda verso anche altri mercati. E perciò la vera crisi noi non l'abbiamo vissuta nel 2009, noi l'abbiamo vissuta quando c'è stato il cambio euro-dollaro, cioè quando noi dalla lira siamo passati all'euro, l'euro si è rafforzato e rispetto al dollaro noi ci siamo trovati in difficoltà. Da lì abbiamo iniziato a fare altri mercati dove, diciamo, in termini percentuali facciamo circa un 20% oggi in Italia, ma questo direi che pian piano si è verificato dal 2003, 2004, 2005, un 15% è diventato il fatturato Stati Uniti, un altro 15% lo facciamo circa in Russia e il resto lo facciamo un po' nel resto del mondo. L'ultimo decennio è caratterizzato dalla riorganizzazione dei costi e da nuovi investimenti, in particolare nelle tecnologie e nei sistemi informatici, ma anche nella formazione e nei rapporti con i collaboratori. Dei circa 330 collaboratori, 90 lavorano all'interno dell'ufficio e gli altri distribuiti nelle varie categorie della fabbrica. Il 20% è costituito da extracomunitari e un altro 20% è rappresentato dalla componente femminile. Noi lavoriamo con una condivisione generale di quelli che sono gli obiettivi dell'azienda. Molte ore sono state spese, investite in formazione proprio delle persone, e ritengo che il vero asset, la vera forza dell'azienda sia rappresentata proprio dai miei collaboratori che quotidianamente lavorano insieme con noi. Abbiamo la fortuna di vivere in un distretto industriale del settore legno arredamento, e questo comporta avere anche dei bravi fornitori, perché l'azienda non ritengo possa essere interessante vincere sul mercato da sola, ma ci deve essere tutto un indotto che funziona bene. Abbiamo dei bravi fornitori che ci servono e che molto spesso sono anche molto propositivi, perciò c'è una crescita che viene fatta in generale, non solo all'interno dell'azienda, ma grazie anche a questa contaminazione positiva che ci aiuta a crescere. Alla fine del 2010, Oliviero Piovesana viene a mancare prematuramente a causa di un incidente. È allora che il ruolo di presidente passa a Maria Cristina, che già ricopriva quello di amministratore delegato. Oggi, Piero Piovesana si occupa di produzione e di costi, mentre progettazione, gestione e creazione del prodotto sono affidati a Flavio D'Afre, che con Maria Cristina ha due figli, Eleonora e Giovanni, ancora ventenni. Mio padre è stato molto generoso perché ci ha accompagnati, ci ha ripresi quando era il caso, ma ci ha insegnato molto e ci ha lasciato anche la possibilità di esprimerci all'interno dell'azienda. In effetti c'è stato il trauma della mancanza di mio padre, ma non c'è stato un trauma per l'azienda, perché noi abbiamo rappresentato quella continuità. Mio padre è sempre stato una persona molto pragmatica e quando ci vedeva in riunione ci diceva: dai, cosa fate? Adesso andate a lavorare. Ci spronava sempre ad essere, diciamo, attivi, ad essere propositivi. Fin da quando ero piccola mi ha sempre portato in giro per fiere, però è sempre stato un modo di operare, di vivere con lui molto molto piacevole. Tutto sommato ha sempre vissuto la vita con una grande allegria. E oggi ci sono anche diverse soddisfazioni date dal tipo di lavoro. Perché mi piace lavorare all'interno di questo settore? Uno, perché è creativo, due, perché è innovativo, e poi perché l'ho sempre considerato un po' una realizzazione. Cioè, noi arrediamo le case di fatto sono un po' il sogno, sono il nido delle persone. Sapere che qualcuno prende un prodotto nostro e con questo realizza anche un progetto di vita, in un certo senso, secondo me, insomma, è una cosa molto bella che mi gratifica molto. Con una superficie di 100.000 metri quadrati, l'azienda ha tre sedi produttive. La principale è a Francinigo, ognuna specializzata in uno dei tre settori: cucine, soggiorni e camere da letto, ma tutte concentrate nel territorio trevigiano. Non è che non abbiamo provato ad andare in Cina, abbiamo provato. Abbiamo visto che era molto difficile raggiungere quella qualità alla quale i nostri clienti erano abituati e perciò l'azienda che avevamo aperto in Cina con un socio l'abbiamo ceduta tutta a lui, l'abbiamo venduta a lui, per cui è stata anche un'esperienza molto interessante, questo negli anni 2003, 2004, 2005, e noi siamo ritornati a produrre solo esclusivamente qui in Italia, perché in Italia cioè il know-how che abbiamo qui, la capacità di innovare, ma il livello proprio di produzione di qualità, che le persone sono in grado di farlo per una questione culturale. Ciò che trovi qui, secondo noi, in Cina non riuscivamo ad ottenerlo. Gli effetti della crisi per l'azienda si concentrano soprattutto nell'anno 2009, superati grazie anche a cambi produttivi e investimenti nell'ambito della comunicazione. Le prospettive per il 2013 sono di segno positivo. Il 2009 è stato senz'altro un anno difficile. Da parte nostra, siccome il lavoro che facciamo ci piace, ci crediamo, non è certamente un anno di crisi che ci ferma, anche perché l'azienda è sempre stata finanziariamente solida. E conseguentemente non abbiamo fatto altro che rivolgerci anche ad altri mercati, cercare di dare alla nostra clientela prodotti sempre più innovativi e perciò diventare sempre più interessanti. E questo ci ha permesso di superare il 2009, fare un 2010 positivo e pure il 2011 e il 2012. Adesso 2013, insomma, gli auspici non sono male, ecco. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.